questo nuovo sportello per studentesse, che sarà uno sportello in uno spazio abbandonato da 10 anni, restituito agli studenti, lo spazio dell'ex mensa della Federico II. È un spazio molto, molto grande, che con un auditorium, il posto mensa è sopra, con degli uffici dove al momento c'è anche la mediateca Santa Sofia e vari altri servizi per studenti. E noi abbiamo pensato, insomma, che fosse arrivato il momento anche di tagliarci una stanza tutta per noi, che era poi il titolo dell'inaugurazione di oggi dello sportello. Che progetti avete intorno a questo sportello? Allora, lo sportello che sarà aperto ogni martedì dalle 10 alle 17, io mi scuso però sono per strada, quindi ci sono un po' di rumori di piazza, e lo sportello che sarà aperto ogni martedì dalle 10 alle 17 fornirà innanzitutto prima accoglienza alle studentesse, e poi c'è un collegamento diretto con i centri antiviolenza del territorio, e insomma quello di Napoli, di Posillipo in primo luogo, e orientamento anche ai servizi sociosanitari, quindi consultori, ai pronto soccorsi, tutto ciò che riguarda insomma il diritto alla salute delle studentesse, e poi tutta una parte sull'orientamento al lavoro, che però verrà fatto, insomma, non sarà una mera compilazione di curriculum, ma sarà un lavoro specifico ritagliato proprio sulle esigenze e bisogni delle studentesse, quindi un lavoro su un bilancio di competenze, a partire proprio dal sede e bisogni delle studentesse.